che ce n'è. Ah, qua ce n'è qua, ma di là invece non ce n'è. Appena il drone. Ciao Claudio, acceso da poco, non da pochissimo, non ho sentito nessuno ancora. I soliti brasiliani a urla sul 34 in LSB. Mamma mia, una cosa, ci hanno un fiato quelli là. E basta. Sassarisi nulla ancora. No, io ho acceso 5 minuti fa, mi stavo rinfrescando, c'è un'aria nera di nuovo. Ogni sera a quest'ora inizia questo tempo di... Bah, allucinante. Allucinante. Non lo so, vabbè, comunque, caldo c'è caldo, però questi turni non mi convincono molto. Speriamo che non arrivi qualche temporale, davvero, se no è un vero casino. Tutto il lavoro che sto facendo, sto sempre pulendo e facendo, porta poco di foglie, mondezza. Eia, ma a me pare di sentire i tuoni da lontano, confermi? È sempre dalla parte di Alghero, so, sempre da lì stanno arrivando. Ogni sera a quest'ora arrivano sempre questi tuoni da Alghero, da quelle zone lì, non lo so. Ci arrivano anche qua, ma qua verso Sassari è bello pulito. Dalla parte mia invece è un po' più nuvoloso, ma sembra che non piova comunque. E poi io, vabbè, avrei voluto anche che piovesse su Sassari, la verità. Una bella pioggia rinfrescante, non lo so, invece non piove. Questo tempo, questa temperatura troppo stabile. Ma dove sono finiti i 3 giorni di maestrale soliti che venivano dagli altri stati? 3 giorni di maestrale, 1 o 2 giorni di tregua, poi di nuovo maestrale. E rinfrescava, Adesso c'è una bolla di calore che perdura. Sempre 30 gradi siamo mi qua oggi. A parte ieri o quando era che era sceso a 26 o 25 gradi, mi pare. Tu che sei calore, buonasera a tutti. Lui che calorifero c'ha già. È maestrale, maestralotto, non è forte ma è maestrale. Primo pomeriggio ha girato un po' all'invecchio, adesso di nuovo maestrale. Capito. Però sempre caldo c'è. Avanti già. Buonasera a tutti, non ho fatto ascolto, non so chi ci sia. Comunque saluto tutti distintamente, dai. E prendiamola come viene. Qua sta facendo dei tuoni buoni tanto. Infatti con la roba 7 l'ho tutta girata, come ce l'ho una più. Ma è sempre il calcolo, ti ho detto. Fulmini non ce n'è, quindi è lontano il temporale, che poi sarà per cavolo. No, primo pomeriggio verso le 5, 5 e mezza, era tutto nero dalla parte di Alghero di nuovo, che da qua si vede molto bene. E poi ha schiarito un po', si sta spostando verso non so dove, su Sassari tutto tranquillo. Anisaito. Vabbè. Comunque ritirata la roba che dice. E beh, Marco, cosa mi sei combinetti? Allora, ciao già, ti devo passare un altro numero di telefono per WhatsApp, perché uno smartphone, quello con la dual sim, è morto, e mi rimane l'altro dove ho messo la scheda home mobile, è il numero mio storico che hanno tutti, ce l'ho messo su un cellulare a tasti. Appena lo copio dal cellularino lo passo anche in quel smartphone. Sto guardando un po' prezzi, prestazioni, no? Qua ci sono dei fissati con questi Xiaomi, tipo il Redmi Note 5, solo che se lo compri a Sassari è un conto, no? Se lo compri da Amazon certe volte ti arriva dalla Romania e quindi non c'hai assistenza italiana, è un po' l'onfia la cosa, mi. Mentre Huawei c'ha proprio i centri assistenza italiani. Huawei l'ha preso anche Liliana, d'accordo, anche Marco, e abbiamo tutti e tre uguali. Aia. Oh, poi molti sono fissati con delle particolarità di cui a me, per esempio l'NFC ancora in Italia non è usato, sì, sta arrivando, ma io se devo pagare pago con carta di credito e boh, cosa me ne frega a me che avvicini lo smartphone e paga automaticamente, boh. Poi temo anche hackeraggi, manomissioni. Poi la gente è fissata con questa USB tipo C da 3.1, no? E senza di quella non puoi vivere, ma che gusti strani. Alla fine praticamente in certi smartphone non ti mettono il jack per le cuffie, ti mettono questa USB 3.1 che serve solo a caricare più in fretta e devi mettere un adattatore per metterci le cuffie, ma a me mi sa di complicazione comunque. Se non lo utilizzi sono tutte cose lì. E poi ricordate una cosa, tutte le cose tecnologiche che usi facciano sempre qui. Nelle macchine quando facevano i finestrini di quelli con la corda d'acciaio, a manovella, non si facevano mai. Stava i motorini dei clienti si facciano. Meno male nella Opel non c'era quel difetto, però nella Volvo, per dire che con questo l'ha presa, non fa un'opera, dopo un paio di mesi l'è fatto. Eia. E quindi Claudio, quando se piove o c'è vento, voi ce l'avete quella, la copertura, no? Per quella cosa lì, sì. Se no entrano foglie, schifezze varie. Sì, ma non è che posso coprire, io c'ho il robottino, quindi lo metto dentro e pulisce tutto lui sotto il fondo tutte le mattine. Però sopra le superfici le foglie che salgono, quelle grandi le tolgo col coppo. E le altre attacco i bocchettoni con l'aspiratore, si riporta dentro l'aspiratore e poi li tolgo dal bocchettone. Ai, ai, ai, perché richiede manutenzione anche quella cosa lì, mamma mia. Richiede manutenzione. Aia. Oh già, una cosa ti dico, a parità di prestazioni, gli Xiaomi, alcuni modelli hanno di bello che hanno la batteria da 4A, la batteria da 4A, mentre gli Huawei 3A, 3,5, 3 di solito. So che come marca non mi si va, la Mi, praticamente anche... non so se abbia, non ha il Play Store, forse ha un suo, quello dico quello nego, non vorrei sbagliare, ci vorrebbe un esperto, che non abbia un suo market, un suo store separato, boh. Insomma, alla fine boh, mi fido più di Huawei. Xiaomi mi sa più di roba proprio cinese di Cina. Poi a qualcuno gli è arrivata la versione cinese anziché italiana, non poteva mettere la lingua italiana, cioè ci sono tante cose che devi tenere conto comprando da Amazon. Se vuoi vedere i venditori, ma anche per la Wii, certi venditori sono dalla Spagna o da altri posti, deve essere rivenditore italiano, garanzia italiana, allora almeno è la garanzia, capito? Che vale 2 anni. Poi per il resto io non credere che giochi, che faccia cose mirabolanti, a me basta navigare, quindi un browser che funzioni, YouTube per vedere i video e l'inter WhatsApp per scambiare qualche file. Ho provato anche la videochiamata ieri per la prima volta con WhatsApp. Ho provato a chiamare Pomponio, come mi è apparso sullo schermo, mi sono rassicurato. Oh Marco, ma il nuovo è 377 o 347? No, che ricordi 377. 377 mi pare. È l'unico è mio, e guarda che è collegato a WhatsApp mi. Il messaggio te l'ho mandato, quello è. E mi pare che sia proprio 3777. Quella è una scheda O Mobile. Nell'altro avevo la scheda Iliad, va altrettanto bene. Quindi 347 va eliminato. No, non lo eliminare, cioè se tu devi telefonare, telefona al 347. Io lo uso come numero di riferimento. Oh, poi se chiami anche l'altro non succede niente, però non lo cancellare 347, sai perché? Quando piglierò uno smartphone dual sim rimetterò la scheda del numero storico per WhatsApp, rimetterò WhatsApp con quel numero e più la scheda per navigare, se capì? Ho capito. Lascio un 347 e un 377, lascio. Ehi, sto facendo la collezione dei numeri di telefono. No, perché quando prendi quelle schede puoi fare la portabilità del numero, no? Però siccome vanno collaudate a lungo queste schede, no? Vedere dove prenderla, dove non prenderla. Cioè bisogna decidere alla fine tra Iliad e Omobile qual è la migliore. Mi sono già accorto che per esempio Iliad va bene un po' all'esterno, ma quando sono sdraiato a letto con la TV accesa, no? Quando sono sdraiato a letto proprio l'Iliad non prende, c'ha solo due tacche, è lento, invece Omobile c'ha copertura Vodafone, ricordati. Cioè Omobile è Vodafone, è un operatore virtuale ma è Vodafone. Invece Iliad si appoggia sui ponti di Wind 3. Vabbè, ma se devo chiamare per stare a cercare i numeri, chiamo su quello di WhatsApp che mi hai dato il nuovo, se non mi luci. Lì non rispondi. Certo che rispondo, certo, posso anche chiamare, minuti limitati. Prima avevo Wind e pagavo un bel, cioè. Prima avevo un'offerta Wind anche per navigare, no? Avevo solo un gigabyte, poi le telefonate le pagavo a prezzo pieno, a prezzo tot centesimi al minuto, decine di centesimi al minuto era una cosa folle, poi me l'hanno aumentato da 5 euro a 9 euro. E navigava così lento come un modem 56k. E ho detto non è possibile, perché Iliad, la scheda Iliad che si appoggia sugli stessi ponti della Wind, fa, io il telefono è un 3G, fa 20 megabit o megabyte al secondo di velocità. E vabbè, l'importante è che rispondi a uno, ce l'ho, poi basta. Sì, si sta nuvolando ancora di più. Vabbè, le prendi già. E se vuole piovere che piova, lasciamolo fare. Ma non rifresco un pochino. E riusciamo a mettere i zecchi. Sì, vabbè. Se non ce l'hai, al cane. Il cane non è a problema. Porto lavare avanti ieri. Perché campagna non lavo più. Ho lavato, pulito. Sono andato a prendere il phon, si è sdraiato tutto nell'erba, si è fatto guardare tutto binghinoso. Allora ho detto, boh, adesso ti porto la Monica, ho portato la Monica martedì. Ieri, oggi mercoledì, e ieri l'ho portato. Ieri mattina alle 10, me l'ho dato alle 11, bello pulito, profumato. No, è per la campagna. La campagna, tutto il chiamato la... come si chiama? Quella di Sassia Nuova Prima. Manifestare tutto, sono venuti col fuoristrada, col atomizzatore, tutto, hanno fatto zecche, pulci, zanzare, mosche, tutto. Perché se no qui metti le cuccia al cane e ti rapide muri. No, se no ingrassi da bui, capito? No, ma intanto lui sta molto sotto la veranda al fresco. Se qualcuno al cancello partono tutte e due, adesso sono in coppia e bisogna stare molto attenti. Però mi sono affiattati Bob e Figliuolo, che poi non è il padre, ma io chiamo Bob e Figliuolo, i due metri, bassa sotto, figurati. Chiuda cattivo, non ti fa avvicinare il cancello, poi io. C'ha la testa e la grandezza quanto è un puledro, quindi fa paura. Lui parte assieme a Baia, non capito, tutti e due, quindi non è quello il problema. Però poi stanno tutti e due al fresco sotto la veranda, no? Non è che stanno molto in giro, capito? Vabbè, ma sono lì, e allora le catene di gioco? No, ma sono porti le catene. Io quando vedo un cane con le catene legato all'albero, in campagna, no, non mi piace assolutamente. Sono liberi, è tutto recintato, guarda, non possono saltare da nessuna parte. È tutto recintato, tutto visibile. Pure nel cancello c'è scritto attenti al cane. Capito? E quindi, adesso lo scrive attenti al cane e anche al padrone. Filippo non ne ha più problemi, forse all'ultimo giorno. No, beh, quando siamo stati a Sassari sì, lo porto, adesso fine settimana, la prossima settimana sono a Sassari 3-4 giorni, c'ho un sacco di cose da sbrigare, un sacco di cose da fare. Devo finire anche un pezzo della facciata con l'autoscala, perché abbiamo dovuto restituire che era scaduto il contratto e me l'hanno portata via, c'era un'altra impresa. La sto aspettando che termino, mi hanno detto lunedì o martedì, quindi devo terminare un paio di pongioli, tinteggiare due pongioli stesso, togliere un paio di cose, di come si chiamano, di quelle, tipo, sono quelle cose che si attaccano alle facciate dove mettono le piante, capite? E molte le vogliono togliere perché sono vecchie e quindi le tolgo quelle a 10 euro l'una. Dalle fioriere, ma il vomito non mi sono le sveglia. E i fioriere vetrolesi ce ne sono belle ancora, tutte sono una ventina, capito? Vogliono tutte a togliere perché c'è da venire i pilastroni e quindi vogliono togliere le fioriere, anche perché sono pericolose, le caricano in terra, sono tutti in radichi, le gaggini sopra le macchine, e quindi devo togliere quelle. Sono la prossima settimana, c'è un po' di lavoretti da fare, dai. Il cancello grande del passo carraio lo farò a settembre, troppo caldo c'è adesso. I lavori li stai facendo tu o c'è qualche? No, sono io con appoggiato ad un amico che ha la partita IVA e tutto, e quando mi serve l'autoscala o mi serve materiale eccetera, compra tutto lui, capito? Società? No, società, io sono questa, no, io sto bene come sono, cioè mi basta quello che prendo, quello che ho, già va bene così, lo faccio per passatempo, però ho visto stanno entrando soldi e quindi lo facciamo. Vabbè. Se venga la candidatura, avanti l'arco, non è fatto nessuno. Ma ancora no. Avete visto sul giornale, hanno rintracciato quello che ha rapinato e ferito quella barbona di Plaza Mona. Io ero convinto fosse uno di quei, come si chiamano, nigeriani. Invece è un italiano, è un pluripregiudicato di Sassari Vecchia, però non hanno detto il nome. È quello già fatto, no? Sì, non so come. Allora, ci hanno fatto attività investigativa, l'hanno tenuto d'occhio, forse si aspettavano, non so come abbiamo fatto. E praticamente ha venduto con loro le cose rubate, gli anelli e la catenina di quella vecchia. Quindi, ma non c'era scritto denunciato per ricettazione, però in realtà dovrebbero mettere anche rapina e anche percosse, non lo so, rapina aggravata, non lo so. Probabilmente quello è quello che li ha comprati, non è quello che ha rapinato. E adesso li daranno anche la rapinata. Se è ricettazione, quello lì li ha comprati. Li ha comprati da qualche altro. Sarà lui. Se non avrebbero messo il nome, e magari l'ha riconosciuto lì. No, lui, ci sono anche le video riprese di lui che vende al comproro le cose rubate alla vecchia, capito? Di 40, quant'era? 43, 44 anni, però nome non l'hanno messo, ancora almeno non l'hanno messo, forse vogliono essere sicuri, no? Verifiche, controverifiche. Poi ricettazione è strana, ricettazione è chi compra roba rubata, casomai il comproro deve essere denunciato per ricettazione. Lì c'è la rapina, c'è anche poi aggressione, non esiste in Italia il reato, esiste il reato di percosse, al limite rapina aggravata, solo loro, poi i giornalisti scrivono le porcherie che vogliono, già lo sai. Magari gli è arrivata la parola ricettazione e così hanno scritto. Ma sicuramente la prima cosa non è ricettazione, ma è cose, rapina, eccetera. Sì, vabbè, si vuole fare quello che vuole, non è che siano molto fini in queste cose. Ma fare articoli. E poi la Nuova non è che sia un giornale politically correct, è sempre vabbè, un giornale adeguato ai sacerisi però. Capisce Spinter, tipo le due fronte in Roma che hanno detto Sarri, merda, questo e quell'altro, che gli hanno fatto pagare 40 euro il tassino per portarle, prima gli ha detto che non le portava qui, quando le ha portate gli ha fatto pagare 40 euro per portarle per quanto fare il futuro Sarri. E ha cominciato a dire Sarri bastardi, siete più un paesello, meglio Roma, questo e quell'altro. Siccome non sono ragioni romani, mi già dalla parlata. E poi bisognerebbe sì rispondere alla signora. Se lei non ha i soldi per il taxi, allora non lo prenda. No, gli hanno scritto dopo le pensate, da rispondere. Gli hanno scritto cosa volevate, solo guadagnare qua c'è da spendere. Magari sono venuto in Sardegna a cercare Pisello. Infatti vengono, dice, perché venite qui a fare le vacanze, se poi potete sprettare i sardi, perché non ve ne siete state a Roma. Infatti. Ma se gente che fa video del genere o cose del genere sono degli zoticoni, o scritte del genere sono delle zoticone, una persona normale, seria, non va a scrivere certe cagate. E poi se uno non ha i soldi del taxi non lo prende, punto, è molto semplice. Vabbè, ma certi lo fanno anche per fare audience, lo sai, scrivono anche cose impopolari, poi ne dicono quattro perché ne dicono quattro, intanto un bel di gente si guarda il post, capito, molte visualizzazioni, non lo so com'è, la gente con questi social network c'ha il cervello bruciato, ma vabbè. Era un video in diretta, Marco, un video in diretta lo fa. Invece hai visto il furto in via Brigata Sassari? Due donne, magari sono le stesse, due donne dall'accento continentale, stavano guardando così un bel di catenine, un bel di cose, quando il commesso si è distratto, hanno preso uno di quei rotoli con tutte le catenine dentro, se l'è imboscato credo sotto la gonna o nei pantaloni. Ho visto il video, ho fatto una mossa che sembrava se lo fosse infilato nei pantaloni. E non so se l'abbiano beccato, ma è già rido se sono quelle. Come si è girato per prendere un'altra fila con le collane, stava già per prendere e lo siamo fregati. Ma secondo me non si ricorda questo nervamento sul banco, si rapporta automaticamente, che si vede via, se c'è anche una chiusura automatica, dal banco si chiude la porta e non esce. Perché lì aveva la borsa a fianco a questi rotoli che metteva, no? Forse l'ha messa lì anche per per parare la vista, la visuale dal tipo. Chiarito davvero ci sono le stesse tipe romane, capito? Che oltre a rubare collanine non hanno i soldi del taxi e vanno a insultare i sardi. C'è che hanno fatto l'accesso continentale, l'ho visto su Instagram, hanno chiesto di metterlo. Perché io voglio dire, ma tu sai, che fatto spiegare così? Nel 2018 esistono le chiusure centralizzate, la cosa praticamente la giudizia non li fai più. Quando si fa vedere queste cose, quindi la giudizia automaticamente, come fanno i giudizi, sono la forza, automaticamente si sono puliti. Poi io non è chiaro quando se ne sia accorto, forse se ne è accorto quando sono uscite, invece bisogna mettere prima tutto a posto, magari attaccare il bottone, metti via la roba, poi apri e le fai uscire, però bisogna avere l'occhio, ma mi pare che erano due commessi, io ho visto due persone dietro il bancone, le due clienti, cioè si sono fatti fregare in due a questo punto. Il filmato si vedono in faccia. E hanno gli occhiali scuri, però sai, magari dai tratti somatici qualcuno riesce a riconoscerle e a segnalarle. Tanto mi se fanno quel tipo di attività rubareccia, sono persone note. Vabbè, i gioiellieri già ne hanno di soldi e di roba. Claudio. aspetta un attimo. Ma sono continentali, Marco. Capace che si dovranno imbarcare la sera, prendi in marchi e cacciarci a papino. Lo so, ma sai, metti che queste vengano riconosciute da uno dello stesso paese o stessa città. Magari fa la segnalazione a chi di dovere. Magari le rintracciano, controllano poi l'attività investigativa, fa tante cose, verificano se ci sono recate con prova a dare qualcosa, no? E chi lo sa, boh. Vabbè. Già, ma non sono assicurati tanti gioielli, usali in affidamento. Il furto non lo so, rapina sì, furto non lo so. Più o meno la stessa cosa. E se poi fanno come gli assicuratori delle macchine, come hanno incidato la macchina, gli avevano detto alla Fiat che la pagavano totalmente, adesso gli hanno praticamente la macchina di 2 anni e gli hanno offerto 2.700 euro per un appunto Young, quella col motore di D2 e quello Fire. Gli hanno offerto 2.700 euro. Quando la macchina costava più pari 14.000 euro, una cosa del genere. Sì, sì, sì. Guarda, quando vai a rivendere roba anche nuova, che siano macchine, che siano baracchini, te la pagano sempre 2 lire. C'è niente da fare. Non conviene vendere, no? Non conviene. Perché tu magari c'hai già un prezzo in mente, no? Cioè, un prezzo equo per un usato. Però già iniziano tipo, ma guarda, ti posso dare solo questo, ti posso dare solo tot. Capito? Cioè, sembra che il prezzo lo faccia chi compra. Ti posso dare. Poi questo cosa fastidio, ti posso dare solo tot. No, no, il prezzo è quello, se lo vuoi è quello il prezzo, se no, ciao. Poi, a prendere oggi un casino, lascio tutto il piatto che avevo nella mano, l'ho messa a 150 euro, solo l'amministratore che costava 350, il costava 50, l'ho messa a 180 euro da un mercatino che c'era da qualche storia. Non ho venduto manco dopo su questo, niente, adesso non c'è mercato. Ma poi la gente non ha soldi, anche quando vendevo su Roger K qualcosa, no? C'era qualcuno che mi voleva dare in parte soldi e in parte roba vecchia, baracchini vecchi di 30 anni, ho detto, ma a me non mi interessano gli altri baracchini vecchi, io sto vendendo, non sto permutando. Cioè, alla fine uno per comprare i soldi o ce li ha o non ce li ha, e molti non ne avevano, dice guarda ti posso dare, quando stavo vendendo tipo 857, no? Dovevano dare non so 300 euro più vari apparecchi, tutta roba di recupero, poi tutta roba di 30 anni fa, non esiste, non esiste. Io cosa mi mangio? I baracchini per campare. Ascolta già, tu come ti trovi col tuo P20 Light? Beh, io mi trovo benissimo, fa delle belle foto. No, è abbastanza veloce. No, mi trovo bene. Perché l'hai trovato? No, sto leggendo opinioni su opinioni. Uno ha detto, testuali parole su YouTube, un commento, dice, no, no, il P20 Light è una cagata, come tutte le versioni light dei cosi. Io so già che non è vero. Dice, ce l'aveva anche mia moglie e glielo ho fatto vendere. Quindi la gente come è prevenuta? Cioè, uno cosa cerca da uno smartphone? Capisco i commenti di certi, cioè per i fissati Xiaomi, Huawei e cacca, e non se ne può nemmeno parlare, e cacca e boh, per i fissati di Huawei, Xiaomi e cacca, e non se ne può nemmeno parlare. Guarda, quello che vorrei io, il P-Smart Plus è molto simile al tuo, molto, anche la forma mia, solo che Huawei, come fa anche Xiaomi, da una parte ti aggiunge delle cose e dall'altra te le toglie. Per esempio il P20 Lite ha la USB tipo C, che vabbè a me è un poco, ha il BLNA, quello per i pagamenti a sfioramento, ha il wifi doppia banda. Invece nel P-Smart Plus ha, allora il P-Smart Plus ha un po' più di batteria, un po' più di processore, qualche rifinitura, però gli hanno tolto la USB tipo C, gli hanno tolto il DLNA o come si chiama, e gli hanno tolto il wifi doppia banda, che lì è solo monobanda. Cioè che senso ha fare un ennesimo, perché che senso ha fare, perché quello mio sarebbe un fascia media, no? Media circa. Che senso ha fare l'ennesimo Huawei molto simile agli altri, che aggiungi da una parte e togli dall'altra? Allora fai il medio gamma perfetto, gli metti tutto quello che serve, gli metti più batteria, più processore, gli metti la USB tipo C, il DLNA o come si chiama, gli metti il wifi doppia banda, così fai contenti tutti. E lo stesso usciamo, è così, fai il modello nuovo e ti toglie la presa per le cuffie, ti toglie l'espansione micro SD, che secondo me è importante, almeno per buttarci sopra le foto e video. Non lo so, fanno 10.000 modelli, poi la Xiaomi non ne parliamo, 10.000 modelli tutti uguali, anche l'estetica uguale, vabbè a me l'estetica non mi interessa, poi il fatto che sia copiato dall'iPhone non mi interessa, a me basta che funzioni bene e che duri, capito già, comunque io mi fido di quello che hai detto tu, se ti sei trovato bene niente da dire, poi le ottiche sono abbastanza buone, mi pare che le ottiche Huawei, soprattutto nei modelli dalla media gamma in su, sono Leica, lo sapevi? Io però ho il P10 Lite, io ti consiglio di prendere quello, va benissimo, lo paghi poco adesso, lo paghi una cantata e va benissimo come telefono, se non trovi il P10 Lite prendilo perché va benissimo, non c'è bisogno del P20, il P10 va benissimo. Ah è vero, mi sono sbagliato, il P10. Vabbè, sì, magari c'ha qualcosa in più, sai, più fotocamera, più processore, alla fine, poi dipende da quanti soldi ho anche. Io una volta mi ero prefissato una cosa, prima di prendere gli smartphone, prima ho avuto sempre solo cellulari, mi pare che avevo ancora l'N70, poi si è rotto, no? Cosa ti stavo dicendo? Vabbè, poi ho preso un tablet che è stato un acquisto sbagliato. Mi ero prefisso, ho detto, per uno smartphone non più di 150 euro. E poi mi sono reso conto che con 150 euro ti viene una fascia medio-bassa, per non dire bassa. E il mio, dopo 3 anni, a parte che quando l'ho preso era già uscito da un anno, era già vecchio di un anno, per dire, dall'uscita, no? Dalla presentazione. Dopo 3 anni e mezzo lo fai, e guarda che quel giga di RAM che ho si fa sentire, la memoria di 4 giga è poca, te ne rendi conto che non ti fa installare applicazioni, anche se liberi spazio ti dice sempre spazio di archiviazione insufficiente, capito già? E questo Huawei P Smart Plus ha 4 giga di RAM e 64 mega di memoria, poi ovviamente è espandibile con la micro SD, però poi te l'ho detto, se io ho pochi soldi ne spendo pochi, se riesco a farne di più ne spendo di più, però magari riesco a farmelo durare 4, forse anche 5 anni, capito, prima di essere obsoleto. Ma vi sto dicendo che quello che c'ho io, per dire, la batteria carica a mezz'ora, non c'è bisogno di lasciarlo tutta la notte, tu lo lasci mezz'ora e mezz'ora ti carica completamente la batteria. Eia, sai perché? Perché tu hai la USB tipo C, no? E supporta la carica a alta velocità. Sì, naturalmente dipende anche dal caricabatterie che li metti, dipende dal caricabatterie, perché ci sono da 1 ampere, da 2, anche da 3. Insomma ce ne sono un bei di modelli, anche Huawei ne fa 10.000, alla fine non sai cosa comprare. Io sai perché volevo questo P-Smart, perché almeno era l'ultimo uscito di fascia media, perché gli altri in fascia media c'erano già. Poi c'è anche l'Honor, che è una sottomarca di Awake, ma l'ho detto che rispetto al T-Smart Plus e al T20 Lite è una spanna sopra. Ho l'Honor 10 o l'Honor 9, non mi ricordo. Ho visto nomi di marche infami, mai sentite, marche infami cinesi, e dice che ti mettono anche degli spyware, dei troiani in serie, lo sai, ti spiano. Non posso fare Claudio. Oh, yeah. Claudio sta lavorando più adesso, adesso con pensione sta lavorando di più di quanto era, di quando era lavoro. È sempre in affaratto. Come la senti questa radio? Bene. Che cosa la sente? Sì, leggero leggero. Allora, aspetta. Ora cambio. Maria, Giulia, non c'è nessuno oggi. E oggi già non è pericolo di tuoni, lampi e fulmini. Ieri avevo staccato l'antenna invece. E ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, fare ieri. Tore squalo per fare. Tore. E al museo Tortala. Cosa? La radio. Allora. Quello che d'altro con i telefonini. Marco sta prendendo la decisione perché il suo oramai è partito. Quindi, se vuoi ti do un S3 allo buio. Beh già, però io ne avevo due di smartphone. Uno era proprio il mio. L'altro era di mamma che l'ha comprato, non ne sapeva nemmeno accendere, proprio come appoggiava il lifto sullo schermo partivano applicazioni, e l'ha lasciato 6 mesi fermo, me lo sono preso io, quindi adesso già ce l'ho lo smartphone, però caspita, è un modello che è uscito nel 2014 o 2015, non mi ricordo. Capito, non puoi mettere troppe applicazioni, il processore è lento, perché io penso che fra meno di un annetto mi lascia a piedi, comincerai a non poter più aggiornare né YouTube né proprio per mancanza di spazio anche, che lo spazio c'è ma non dice sempre quella cosa lì, no? Spazio di archiviazione è sufficiente e non venuto da lavoro, ho pulito la cache, ho fatto tutto quello che mi dicevano sui forum, niente. E quindi ne vorrei, ma anche perché, sai già perché, il mio è un 3G, ho la connessione 3G, quindi più di 20 megabit al secondo non fa, mi pare, 20 o 30, non me lo ricordo, mentre il 4G può arrivare, 4G plus arriva anche a 220 megabit per secondo, o megabyte, non mi ricordo. Da, questo è il telefono, così almeno, decidi. No, non farti influenzare dagli altri, però guarda che li Huawei sono molto buoni, io non lo conoscevo, dico la verità, l'ho conosciuto, l'ha parlato Graziano che se l'aveva preso la pizza, però io non lo conoscevo, pensavo che avesse sbagliato lui dicendo, invece aveva ragione, io la marca non la conoscevo. E poi parlandone con mia figlia, ecco, no, sono un bel buoni, mi ha detto papà, li stanno prendendo tutti questi lì, stanno uscendo a poco, stanno prendendo tutti qua. Poi sono andato a vedere, ho visto il P10, l'ho preso, scatto, il giorno dopo era 100 euro in meno, la sorta non mi ha detto nulla che c'era l'offerta il giorno dopo, e me l'ha fatto pagare 100 euro in meno, capito? Marco mi ha telefonato e mio figlio ha detto, papà non ti mangiare le mani. Sai che il Huawei, quello che abbiamo preso ieri noi insieme, oggi è 100 euro in meno. Ce l'ho io, buonasera, ce l'ho io Huawei. Ciao Giulio, ben entrato. Ciao Squalo, ben entrato. Mi sa che siamo tutti monomarca, amico. Davvero, prenderlo nuovo, prenderò Huawei lo stesso. No, aspetta, aspetta, io ce l'ho di marca. Io ce l'ho di marca. Come dire che Huawei non è una marca? No, ho detto che quello che c'ho io è di marca. Aspetta. Ciao Giulio. Ciao Gian. Io ce l'ho Huawei. È bambino. È bello, bello, veramente. Funziona per le funzioni, per cui non costa nemmeno poi tanto. Va benissimo, va benissimo. Ho già. Marco, se tu devi comprare, prendo Huawei. c'hai tu del Huawei? Non lo so, adesso lo trovo su io perché ce l'ho io, dove c'è dove ci va a prenderlo. C'ho il P10 Lite, va benissimo, fa delle foto perfette, ma belle però, il fotografo certe cose le fa benissimo. Adesso hanno fatto un modello di telefono che ti fa le foto anche in movimento, per dire un cavallo che corre, te lo blocca, mentre invece questi telefoni di adesso ancora facevano, ne muovevano le foto, le facevano un po' mosse quando erano in movimento. Adesso stanno facendo un tipo di Huawei che praticamente ti blocca l'immagine anche se è in movimento. Beh, ok, sì, no, perfetto, sono dei telefoni molto belli, funzionali al 100%, non te ne dà problemi, insomma, ecco, interessante trattare bene, è utile. Rispetto poi anche il tablet, guarda, sono delle immagini, un tablet piccolino di 25 cm, sembra che tu stia guardando un computer grande, da 20 a 20 pulli, per dire, no, no, si vede benissimo, tutto bello chiaro, anche non solo le immagini, ma anche la scritta, tutto quello che è scritto è bello, chiaro, perfetto. Se ti devi fare la spesa, Marco, falla pure, perché tu con la marca ci vai sicuro. Sì, una cosa ho notato, che gli smartphone moderni, adesso spiego, io ho un normale schermo da 5 pollici, no, che è abbastanza piccolo, no, tra virgolette, e man mano che facevano gli smartphone più moderni, negli ultimi anni ho cominciato 5 pollici, 5,5, 5,90, 6 pollici, pare siano arrivati 6,5 o 6,25, insomma, sono dei padelloni, capito? Mentre il mio sta in tasca, ho paura che un nuovo modello non sia in tasca. Giustamente uno ha fatto l'osservazione, ma perché non fate smartphone moderni, performanti, ma con gli schermi più piccoli, in modo da alzare nella tasca dei pantaloni? Invece stanno facendo schermi sempre più grandi, come se fosse un vanto. Sì, può essere bello per chi gioca, per chi guarda film, però poi diventano impegnativi come dimensioni, capito? Sì, quello è vero, non sono abbastanza piccoli, i versetti in tasca non è che si stanno molto bene, questo è vero, però si è accontentati, è una cosa o l'altra, ma poi tu non ti stanno rendendo in conto, aspetta che abbasso il servitore che si è acceso qua, aspetta un attimo, ecco, stavo dicendo, tu non ti stavi rendendo 3.009, il 24 ti prendi il telefono. No, 3.009 no, piuttosto parlo col 3.009 e abbandono il telefonino. No, allora era un altro, baracchino era. E alla fine ho deciso di tenermeli, intanto te li sottopagano, dimmi già. Per questo anche quei telefoni hanno fatto così. Prima li stavano, sono partiti da telefoni stacchi quelli grandi, poi hanno fatto più di piccolini che ci stavano in tasca, ma piccolini, io ne ho avuto diversi di quelli piccoli, con i tasca. E poi sono di nuovo diventati grandi i telefoni. Ehi. L'ultimo mio telefono, adesso fammi fare mente locale, il telefono a tasti era forse il Nokia N70, eppure io mi ricordo di averne avuto un altro di Nokia, boh. Poi sono passato al tablet, quello che era sparito, ma non era un granché, era troppo poca RAM, mi sono fatto infinocchiare un po' da... Comunque tablet non ne prendo più, preferisco uno smartphone allora con lo schermo da 6 pollici. Comunque guarda, la Huawei P20 Pro è un sogno, 40 megapixel di fotocamera, intelligenza artificiale, stabilizzatore immagine, zoom ottico, poi c'ha, non so cosa tutto abbia, è solo che se lo compri a Media World costa 800 euro, ancora. Se lo compri da Amazon costa anche 600, però ho visto che i negozi sono di dubbia provenienza, non è roba italiana, è roba spagnola o di altri paesi, quindi magari non c'è nemmeno la garanzia italiana, cioè per quello costano poco, capito? Io se posso lo prenderò da Media World, se posso. Voglio che sia proprio del mercato italiano, garanzia italiana e tutto il resto. E il concorrente della Huawei P20 Pro è il Samsung G9, no, S9 Plus, il 9 Plus, non mi ricordo, anche quello è un sogno, però quello costa ancora di più, 100 o 150 euro in più perché è Samsung, cioè 1000 euro di telefono, non so se mi spiego, eppure c'è gente che affronta quella spesa perché dice io lo compro molto performante in modo che mi duri 3, 4, 5 anni, anche 6 prima di cambiarlo. Ed è così? 2,10 che l'ho pagato 290 qualche cosa. Il giorno dopo costava 100 euro in meno e chi si è tolta la base di frutta. E uno ha fatto osservare, non è giusto però nei confronti dei clienti, cioè vai, che ne so, la sera prima alle 8 proprio alla chiusura lo paghi 3 tanti, vai la mattina dopo 100 euro in meno, non è giusto, non è giusto. È stata zitta anche la tipa, capito? Vabbè, lei deve fare l'interesse del negozio. Ma i commercianti per eccellenza sono sempre stati ladri, lo sappiamo benissimo che fanno questi giochetti qua, no? E se la venduta 100 euro almeno il giorno dopo, stai tranquillo che minimo ci ha guadagnato almeno 2 volte di quello che l'ha pagato, voglia. Perché sono così. I commercianti, io ho sempre detto, per me sono dei ladri, commercialmente parlando. Vuol dire da noi quando c'è un'offerta, vuol dire una signora sta comprando questo dire i 5 di Coca-Cola, che deve fare magari qualche spesa da fare, non la prenda oggi, che domani è in offerta, e prenda una se questo gli serve e poi la sa per domani, ma è fatto bene già domani poi già me la prendo, grazie, e ti dà male, capito di lui. Ma lo fai tu, però lo devi fare anche nascosto dell'azienda, perché se ti scopre l'azienda magari si riprova, e beh lo sappiamo, ma l'azienda non parla così, non fa quel ragionamento già, tu perché magari una persona ti tieni, la trattava bene e sotto metafora lo puoi anche dire, ma se ti dovessero scoprire cosa ti succede? Penso niente, perché diciamo che queste qui, ogni giorno se li tratti bene continuano a tornare, se invece gli spieghi si sentono fregati, non metti giù, già rimane la giubilata e non metti giù, e si ritroveranno a te, non si ritroveranno, il principale c'è lo stesso guadagno, anche perché per dire se noi le diamo in offerta vuol dire che sai come funziona, ne prendiamo una quantità grossa e ci fanno uno sconto, magari una pedana ce la regala, ce la danno a regalo, grazie. Possiamo fare dei discorsi di insomma tutti quindi non c'è nessuna pesca e no, per te non c'è nessuna pesca per come ragioni tu, ma la ditta non ragiona così, perché la ditta intanto viene oggi a comprare quel prodotto al prezzo che glielo do, domani ritorna perché deve ritornare, perché è così, ricordati bene che il cliente una volta che si affeziona in un negozio difficilmente si stacca, ma si può andare, girare, andare da qualche altra parte, ma poi alla fine si torna sempre alle vecchie abitudini, e così siamo tutti così già, dai, no, io la penso in questo modo. Facciamo venire avanti anche il sole avanti. Diciamoci che c'è la concorrenza, solo se si è preso in giro, cambia, prega, è che così. Anche io adesso lì non ci torno più perché mi sono sentito preso in giro. Ma dove l'hai preso? E d'accordo, quello che c'è dove c'è Oppo, come si chiama? Basta di dire, no. Vabbè, comunque, Oppo lo sai dove è a Predanietta, dietro. Chi è Oppo? E c'è quella fontana a Predanietta, ce l'hai presente? No, quale fontana? Non so di cosa vi stai parlando. Vabbè, dai, no, mi interessava sapere se era Media World, se era un euro. Peraltro mia zia quando è andata ad un euro, no? Si è fatta scappare uno sconto per il P-Smart che ha preso lei, non quello plus, quello normale. E c'era sta ragazzina con gli occhiali così, la commessa che stava facendo un po' la stronza, e dice, ormai offerta è passata, non glielo possiamo dare, scontato, noi regali non ne facciamo a nessuno. Sta facendo un po', io me la sono guardato, tasco, giriamo le spalle e mandiamole a fanculo, e così abbiamo fatto. Scusa il termine, Giulio. Sì, lo era, dai, non mi veniva. Ehi, no, perché, ma cosa perché vedi? Lì vicino, o poi lì, dove c'è quella pubblicità di quella pompa che sta acqua in quantità industriale, che continuamente, 12 ore al giorno come minimo funziona, la notte non lo so, ma durante il giorno c'è sempre funziona. Dove c'è Vetis lì alla rotonda, c'è Vetis, no? E poi più avanti, 100 metri nemmeno, c'è Oppo. Sì, con la cosa cascata che scende sempre acqua, ci ho capito, sì, comunque da un euro, via. Io mi ha fatto una brutta impressione un euro, l'ultima volta ci siamo stati. Praticamente c'erano queste due, cioè per servire un cliente c'erano due persone alla telefonia, una che non faceva nulla, l'altra che faceva chilometri avanti e indietro per documenti, per fotocopie. Siamo stati roba di 40 minuti aspettandomi e non vedo nessuno, stavano servendo solo quel cliente, più una commessa, quella giovincella stava facendo la scema. E allora ho detto, mia zia, io alziamo i tacchi e ce l'andiamo da Media World. E l'ha preso lì, però mia zia si è fatta un po' infinocchiare da Vodafone, cioè lì lo voleva pagare a prezzo pieno, no? 2,50. Purtroppo poi il ragazzo Vodafone ha detto, ma guarda, se lo prende l'offerta Vodafone, lo paga poco per volta. Insomma, così ha fatto lei, poi ne è uscito a mezzo pasticcio, che per un euro che non aveva pagato, non so in che forma, visto che l'addebito è sul conto bancario, gli avevano mandato una fattura già col prospetto, in caso di disdetta, non so che cosa, no. Poi non sono trasparenti alla Vodafone, sono dei gran farabutti, detto tra noi. Insomma, si è pentita, ha detto, avrei fatto meglio a pagarmelo per intero, 10.000 cavilli, 10.000 postille, 10.000 cose che ti inseriscono che non vuoi. Ha detto era meglio che me lo comprassi a prezzo pieno e poi mi mettevo una scheda Iliad oppure un mobile come quella che hai tu, tipo 5,99 al mese, tutto compreso, 30 giga di traffico, telefonate illimitate, sms illimitati, nessuna spesa aggiuntiva, capito? E nessun rincaro, perché l'offerta di Iliad si diceva 5,99 al mese per sempre, non prevede rincari, siccome invece ho mobile di Vodafone, è un po' più l'onfia la cosa, capito? Ti dà le stesse cose solo per un euro in più, però non è detto che non aumenti la tariffa in futuro. Che Vodafone diceva che non aumentava e poi ha aumentato, lascia perdere, che non c'è nessuno chiaro, Marco. Quindi comunque come va quella nuova ditta di Itima, come si chiama? Come va? Tu ce l'hai? Sì. Allora vi faccio una piccola introduzione, premesso che io avevo due smartphone quasi simili, uno era la Huawei G610, l'altro è il G630, ma come processore e RAM sono tutti uguali e sono tutti e due 3G. Allora, diciamo che quando faccio gli speed test, no? Prima uno poi l'altro di seguito, uso lo stesso server, naturalmente perché sennò la prova non vale, diciamo che si equivalgono sia o mobile sia Iliad. Certo non ho fatto la copertura andando lontano perché alla fine sto molto, con questo caldo sto sempre a casa, quindi vorrei vedere Alghero come prende in altri posti. Vabbè. Ho notato una piccola cosa, Iliad ti dà un po' più di velocità, tipo arriva a 20 megabit per secondo, però ti dà poco upload, ti dà massimo 2 mega di upload, massimo. O mobile magari te ne dà, che ne so, 15, poi le cifre variano continuamente, però ti dà già molto più upload quando devi caricare video, quando devi fare videochiamate, eccetera, capito? Però bene o male a Sassari la copertura si equivale. magari quando vai fuori, quando vai in zone isolate, quando vai in paesini, allora lì vedi la differenza di copertura. Ricordati Gianni, Iliad usa i ponti della Wind 3, perché ancora Iliad non ha i suoi ponti ripetitori, ma li metterà prima possibile, no, poi deve farsi tutta Italia, no? Giustamente. Invece di positivo o mobile ha, che è Vodafone, usa ripetitori Vodafone, perché o mobile è Vodafone, e quindi già la copertura potrebbe essere un tantino migliore. Poi c'è gente che dice, in base alla zona, o mobile cacca, viva Iliad, oppure Iliad cacca, viva mobile. Diciamo che a Sassari in città si equivalgono le due linee, capito? Le due velocità delle due linee. Vabbè, io c'ho Vodafone, ce l'ho già da un bel po'. Ma ogni tanto mi fa qualche regalo, o mi regala minuti di conversazione, o mi regala SMS in più, insomma qualche cosa me la regala ogni tanto, poi c'è gli altri che non regalano mai niente. Vediamo un po' se vuole entrare qualcuno, poi facciamo girare per Tore, poi farà girare per tutto, dai. Anzi, Tore, Giulio? Ok. Ma io vola poco, diciamo che li ho minacciati che non l'avrei più caricato, perché a me dalla scheda vola poco, tutte le settimane me ne prendevano 2 euro, tutte le domeniche. Loro di nuova iniziativa mi avevano messo il sistema che la domenica potevo telefonare al mondo che non avrei pagato niente. Ma chi me l'ha detto a voi? Tutte le domeniche io caricavo, siccome vuole poi io non uso solo per ricevere praticamente le telefonate, e uso l'altro, lo pago con 3 mesi e non consumo la scheda, perché vuole ancora la scheda alla vecchia maniera. Ho telefonato e mi hanno risposto dalla Albania, mi hanno risposto e finalmente telefonata con Vodafone e mi prendevano su tutte le domeniche, ci mancavano 2 euro minimo, e questo me l'hanno detto loro, perché quando ho protestato me l'ha detto il corrispondente che ha parlato con me, mi ha detto se tu hai il sistema che la domenica puoi parlare a qualsiasi ora e anche tutto il giorno senza spendere niente. Ha detto, ma chi me l'ha detto? Chi me l'ha chiesto? Io non me l'ho chiesto. Evidentemente l'hanno fatto loro, io non si attiva. Spendevi lo stesso, non devi spendere nulla, ma spendevi lo stesso. No, non spendevo niente, la domenica non pagavo niente, la scheda non consumava, la domenica non veniva consumata la scheda, solo che loro mi prendevano 2 euro di loro iniziativa, anche se io non lo utilizzavo, se io non lo usavo, capito? Quello che ti sto dicendo io, mi dava le dirate che ho utilizzato, è successo anche un amico mio, lo sai, che ha protestato perché lì non gli mancavano su, mentre faceva una carica di colpo gli mancavano 3-4 e ha detto se c'è qualche cosa che magari è da installatela, perché io non voglio pagare tutto, se no me ne vado via da poco, e me l'hanno trovato, gli ho detto che c'è per fare questa cosa di musica, che magari lui magari ha installato questa cosa e se ne stava mangiando su. Non vale che se si accorge, se non è vero, sono loro che mettono certe promozioni così proprio per guadagnare, capito? Lo fanno apposta, sono furbi loro. Io li ho minacciati, guarda che io adesso questa è l'ultima ricarica che faccio, e non le farò mai più, anzi vi farò una pessima pubblicità, gli ho detto tieni il soldo, senza stare lì a girarti intorno, perché a me non me ne frega niente, io le cose gli dico come faccio, senza stare lì a prendere troppo in giro di parole, capito? E lui ha capito e mi ha sistemato tutto, adesso quando metto la ricarica quella rimane, e a meno che io non la consumo, è meglio però. Però prima si consumava questa cosa, cioè la consumavano loro, senza che io lo utilizzassi, ma quando mai? Adesso qui, adesso qui siete, ma cosa fate? Ladri di professione, fate o avete ingestione Vodafone, perché così non va bene, se non è tocchiare il tondo, lui. capitato, non sono rientrato di lui. Stavo parlando solo a Barelli, per la risposta direttamente dall'Albania. A parte Marco. Lo so, hanno molti call center in Albania. E anche parlano con dialetto che quasi non capisci. Sì, lo so, Vodafone, molti sono lamentati che tende a aumentare un giorno magari piccoli aumenti nel corso di un anno, poi te lamentano di 2 euro, poi di 1 euro, magari ti aggiungono servizi non richiesti, come ha fatto notare uno, tipo protezione web. Dice, ma se io c'ho già l'antivirus, il firewall, cosa me ne voglio della protezione web? E me la fanno pagare in più. Si aggiunge tutte queste piccole cose che poi a 2 euro, a 2 euro, passi, magari pagavi 7 euro all'inizio, poi 9 euro, poi 10, poi 12. Vodafone è un po' così. Vabbè. Però con Vodafone hai già una garanzia di copertura, salvo rari casi che sei in zona d'ombra, vabbè, se sei in zona d'ombra anche nulla la va comunque, sei in zona d'ombra e boh, non prende con nessuno. Ma io avevo anche Wind, avevo, e quello l'ho cambiato, perché questo quello, poi abbiamo cominciato con 6 euro, abbiamo cominciato al mese e poi sono diventati 15 così. Tutte le volte 1 euro, 2 euro, ma è riuscito a diventare 15. Caspita, sono andato, mi sono scocciato, andato alle poste e ho messo poste mobili e mi trovo bene con poste mobili. Ho fatto un contratto con un sistema di 3 mesi e il pagamento sono tutti insieme, praticamente 10 euro al mese. Ogni 3 mesi pago 30 euro, pago e ho 1000 telefonate, tutte le cose, i messaggi e poi c'è internet, c'è tutto, con 7 giga addirittura, non più 4, come la prima, con Wiki, ma bensì con 7 giga, vai già. Beh, io vi saluto adesso che devo andare a passeggiare. Ci sentiamo, dai, buona serata a tutti e buon continuo QSO. Mi ha fatto piacere fare questo QSO, dai, fatevi sentire spesso. Ciao! Ok, ciao già. E noi siamo, non dico tutte le sere, sono meno io, ma qua sei tu che ci devi aggiornare a farti sentire più spesso. Avanti, Marco. Ciao Gianni, dai, sentiamo. E poi c'è tutto un mondo dietro a questi cellulari di gente smanettona che non fa altro che ruotare, flashare ROM, modificare proprio radicalmente certi aspetti del sistema operativo. No, io non mi interessa più, già mi sono avvelenato con Windows, non mi interessa più, voglio essere un utente medio, deve funzionare normalmente. Lo smartphone è quello che è, non voglio sapere niente. Va bene. Aspetta, anche oggi volevo uscire, volevo andare a trovare Pomponio, niente, no? Avendo dormito male stanotte, mi sono svegliato anche con un'emicrania stamattina, Ho dormito poco e male. E quindi ero mezzo sonnolento, il pomeriggio non sono andato a trovarlo. Sto uscendo poco, la verità. Dopo un momento iniziale che sfidavo anche il caldo più estremo, adesso lo sto accusando il caldo, caspita. E pensare che siamo a 30 gradi, non di più, 30 gradi all'ombra. Pensa quando ci sono state estati con 36 all'ombra, era soffocante, questo in confronto è niente. Purtroppo siamo in estate, la temperatura è quella. Giorno più, giorno meno, lo sappiamo benissimo. A proposito, come sto uscendo questo baracchino? Visto che sto provando questo, ne ho tolto un po' di un altro, vediamo un po' come sta funzionando, perché l'altro è partito, non riceve, porca miseria, quello che stavo usando qua avanti, che abbiamo fatto anche dietro, non riceve, trasmette ma non riceve. Vabbè, pazienza, lo buttiamo. Come esce questo già? Cioè già nel Marco, già nel radio e anche il segnale, visto che ci siamo. la radio è buona, una radio normale, così. Bene, bene, il segnale va bene, qua è molto aleatorio il discorso, però prova il segnale, dai. Potrei, con qualche idea, potrei aumentare appena la radio, volendo, ma mi ci si proprio così da niente, adesso non lo so, dovrebbe essere leggermente più forte, suppongo. Ho aumentato un pochino, va bene così? Sì, adesso va meglio. Oh, io personalmente poi il mic gain lo lascio sempre a manetta, perché intanto queste radio sono normali, capito? Non sono mai di quelle troppo spinte. È 9.20 più o meno, vabbè. Interpretando questo Smith dovrebbe essere un 9.20, comunque è buono il segnale. Ma mi sono stupito l'altra volta di quell'apparato. Quello col display, con lo Smith digitale che segnava 9, segnava 9 a te, segnava 9 a chi era entrato dopo, non mi ricordo chi era. Ho detto, ma qua c'è qualcosa che non va in antenna, e invece era lo Smith. Vi avevo chiesto se avevate abbassato la potenza, non so. E vabbè, purtroppo, baracchini sono, roba da poche. Anzi, costano più di quello che valgono, secondo me, i baracchini nuovi. Beh, sì, probabilmente sì. No, sì, va bene, comunque. Io ne ho una marea, ma diciamo che sono quasi tutti. Sì, omologati, ma la vecchia omologazione. Questo adesso che è omologato col marchio c'è, boh, si è zittito, non pare, trasmette, ma no, no. Non riceve o manco, cioè mi spiego, lo smette sale lo smette quando ci sono le portanti, però non riceve come voce, non riceve voce, adesso non so se è andato parlante, ma ho provato a mettere la cuffia anche, probabilmente sarà partita qualche resistenza, non lo so, comunque, meglio per lui, lo buttiamo, non se ne parla più. E che baracchino era, si può dire? Sì, un Superstar 360. Ah, il 360, sì. Eia. E poi non. Sai cos'è? Non ci sono tecnici che si prendono la briga di ripararli bene i baracchini, no? Non ne frega più niente a nessuno i baracchini, capito? Almeno quelli nuovi hanno 2 anni di garanzia, al limite se proprio va male o te lo riparano o te lo sostituiscono, ma dopo la garanzia la ditta che lo importa dice che non ha pezzi, io ci scommetto proprio voi, fuori garanzia ti dice non abbiamo più componenti, e quindi, ma poi con questi SMD non ne vuole nessuno, te ne scono io che ripararlo, mamma mia. Va bene, perché vabbè, finché si tratta di un HF posso capire, è una cosa che vale di più, ma per il baracchino magari ti chiedono 50 euro di riparazione di un baracchino che ne costa 100-150, roba usaggezza, va. Infatti non è vale la pena, cosa via, che anda di tu, poi che cosa sono 50 euro, 100 euro, non so più niente. Stavo pensando di prendermi il percorso, senti mi rendo, però quello di Graziano, sento che ha una radio favolosa, bella, forte, proprio, con un microfono normale, e credo che lo stavo usando anche, guarda quanti gli mette, 7.900 mi sembra, CR, non mi ricordo, CR, CR, CR o CHR, boh, non me lo ricordo, 7.900 comunque. Sì, è quello il cui Smitter segnava poco l'altro giorno, è quello lì. Diciamo che ha una tonalità di trasmissione più calda di questa. Poi c'è il 9009 che di radio esce ancora più forte. Il 9009 è una particolarità, che tu parli a 5 cm o che parli lontano tutto il braccio, la modulazione non cambia. C'ha una bella. È forte di radio, mi. È più forte del 7009 addirittura. Sì. E poi non so nemmeno quanto costa, ma questa è un poi vabbè, ho letto anche, poi bisogna vedere se è vero. Queste cose che ti chiedono adesso, il certificato di conformità, ho sentito uno che ha detto che quello serve solo, magari è più esperto del settore, il certificato di conformità serve solo per il commercio, non serve per i controlli che ti fanno a casa. Ma, vabbè, diciamo che se ti vogliono castagnare trovano una scusa qualunque qua, capito? Perciò ho detto che c'è una mafia anche in quel settore, eh? Se ti vogliono castagnare il cavillo lo trovano, secondo me. Beh sì, ce lo sappiamo come funziona. No, ma secondo me sempre quello, se tu dai fastidio avrai dei fastidi anche tu, se non ne dai il fastidio allora chi ti cerca? Lui. Oppure stiamo pensando anche il 5 delle 5, anche quello è uno che mi piace, come al palizio quando mi piace, quindi. Anche il 5 delle 5 mi piace molto, Marco. Sì, in effetti, 5.500, 7.900, no, 6.900, scusa, 6.900 display blu, 7.900 display, diciamo, è un color ambra, rosso, dipende, se lo fotografi sembra rosso, davvero è un color ambra, comunque un bel colore, io l'ho preferito perché era un colore caldo, rispetto a quel glaciale azzurro che ormai stanno mettendo in tutti i baracchini, hanno anche stancato con questo azzurro. Ah, è sempre quello, sì. Sì, sì, naturalmente io gli ho fatto delle piccole ottimizzazioni, c'è il trimmer della M, è tutto chiuso lì, cioè molto chiuso, l'ho messo a manetta ovviamente, anche l'FM era molto chiuso e l'ho migliorato un po', adesso l'FM è perfetto. Sono piccole cose che vanno fatte, perché sennò l'apparecchio è frenato nella modulazione, risulta più ovattato, più nasale, c'è poco da fare. Sì, ma invece tutto quello non succede nel 2009, va benissimo, super sale, è eccezionale, quello spara subito, al primo colpo, per stare lì a fare regolazioni e ballerbacchi, nel 2009 come il gas, è come il flusso anche, che sono più o meno della stessa famiglia, lo stesso discorso, ma quello del 2009 a me piace moltissimo anche questo, soprattutto quello argentato, Beh, in realtà il 3009 è lo stesso al trimmer della M, per esempio qua essendo omologato, in realtà il trimmer è, non so a quanto sia, ma è chiuso, la modulazione più di tanto non spinge. Ma se io qua dovessi metterlo a manetta al trimmer della M, ma lo sai quanto diventa più forte la modulazione? Solo che poi perdo l'omologazione, quindi non ha senso, preferisco tenerlo omologato. Beh certo, perché noi è utile andare a comprare un omologato per poi modificare, poi lo deve modificare. Per modificare ne ho la marea, le baracchine qui, che mi stanno anche dando fastidio, mi stanno prendendo posto, ma perciò non metto anche incavolate. Queste cose in la Cina le faccio fuori, le porto al pinocchio, per così come dice Graziano, oppure le regalo un po' a quello di porte a Carbonia, che abita a Carbonia, tanto cosa me ne porto tutte le carte che ti avrà la tutto sommato, basta uno, due, massimo, sotto il caso di necessità, che ti basta uno e cioè, hai l'altro. Oltre il resto, lui ormai sono passati quasi 47 anni attaccati a questi apparati e mi sono anche stancato. Guarda, ho letto sul forum solito, no? C'è qualcuno che è venuto a conoscenza del baracchino tramite il forum, no? E vedendo tutti i messaggi pensava di trovare chissà che cosa, pensava di trovare gente su gente, no? Insomma, certi si sono comprati il baracchino, l'antenna, hanno installato tutto e poi sono lamentati sul forum che in certe città non senti nessuno nel raggio di 50 km più, proprio deserto, non senti nemmeno i camionisti. E quindi poi cioè un po' disinformati, dovrebbero, leggendo bene le pagine, dovrebbero sapere che ormai non è più come gli anni 80-90 e prima, ormai è deserto, è una rarità il baracchino, e quindi alla fine ha fatto la spesa per niente, per niente. Sì, no, ma io, guarda, torno a dire che i commercianti sono ladri, per me i ladri sono ladri, non dico a piena voce, quelli sono ladri e basta. Adesso vediamo, queste apparecchiature ormai sono in fase di sparire tutto completamente alla frequenza, proprio in fase addirittura proprio bloccata, non c'è più niente. L'altro giorno ti ricordi con la parte mia ci ha detto che anche lì da loro c'è pochissima gente, nonostante tutto i prezzi li mantengono sempre alti. Ma quando mai, ragazzi, dico questo, vedi che sta andando a morire questa frequenza, e nonostante tutto tutti i prezzi delle apparecchiature molto alti, ma sarebbe più giusto abbassare i prezzi, beh, così anche per cercare di invogliare la gente a comprare questi baracchini. Continuo a dire, per me i commercianti sono ladri. Poi ho notato che alcuni sono più cari di altri, proprio a parità di baracchino, no? Per esempio l'Alan 48 scritto in lettere, no? L'ultimo proprio, l'Alan 48 scritto in lettere, lo vendevano 190-180. Media Globe l'ha portato per un breve periodo, l'ha venduto a 150 euro, e così era già più abbordabile. Se tu lo compri a Sassari, l'Alan 48, la GBC, 200 euro ti chiede, non di tonno, 200 euro per un baracchino 40 canali MFM, ma non ti nandi, con 200 euro ci viene l'HR5005, insomma ci vede qualcosa di, capito, di più. Poi vabbè, se uno lo vuole omologato, ci sono anche omologati da 50 euro, non c'è bisogno di spendere 200 euro per un omologato. Insomma, ci sono, diciamo, i commercianti saranno ladri, ma certi sono più ladri di altri. Sì, ma quelli sì, quelli, non so, ci sono omologati anche da 50 euro, è per quello, cioè, sì, ma quelli, senti, la maggior parte, cosa senti, senti QRM, ma troppo QRM, quelle sono apparati che non valgono proprio niente. Fanno la testa con del campanile di Santa Maria, quando tu accendi con il rumore che accendi fuori, per carità, voi, no, assolutamente no. Sì, ma per dire, adesso, un baracchino 200 euro, guarda che caro, non è uno scherzo, è quello che io non mi chiedo, ma questa frequenza, queste apparecchiature ormai arriveranno al giorno che non le potranno vendere più nemmeno uno, perché non ci sarà più nessuno che mi cercherà. E intanto, nonostante tutto, non abbassano i prezzi. È incredibile, ragazzi, la l'ingordigia di questi commercianti, che non me lo toglie nessuno dalla testa. Per me sono ladri, perché loro, un baracchino, quando non pagano molto, poi per esagerare lo pagheranno 30-40 euro, eppure non vendono 200. Io non sono più che convinto. Beh, magari 30-40 no, però almeno il doppio ci fanno. E poi ricordati che questi numeri piccoli ci hanno fregato. 200 euro sono quasi, vabbè, arrotondando a 2 euro, cioè le 1 euro 2000 lire, 400.000 lire. Cioè io in lire non l'avrei mai pagato così un baracchino, lo sai. Se fossero state le lire, io 400.000 lire, il 5005 non l'avrei mai comprato. Però prendendole in euro vedi che la mente viene ingannata. È un circolo vizioso. È anche vero che ho visto aumentare i prezzi del doppio. Proprio prima dell'euro, no, a Piazza Tola, tre magliette, 10.000 lire, 10.000 lire, ho appena passato l'euro, tre magliette, 10 euro, che sono quasi 20.000 lire, lo stesso da Auchan per delle videocassette, no, quelle da registrare, tre videocassette, 7.900 euro, appena appena passa l'euro cambia il prezzo, 3 cassette 7,90 euro, che sono il doppio però, capito? Il governo idiota avrebbe dovuto congelare i prezzi, cioè proprio fare un provvedimento per evitare queste speculazioni, capito? Insomma, congelare i prezzi, cioè se il pane, non solo il pane, tutti gli articoli, se un articolo costa 10.000 lire, allora farlo pagare 5 euro, non che raddoppi il prezzo mettendo 10 euro 20.000 lire. Purtroppo non l'ha fatto perché questo è un paese di... è un paese di materia fecale questo, capito? Perché è un paese di capitalisti, loro aiutano solamente gli industriali, capito? Non è che pensano alla gente media, no, a loro sempre cercano di aiutare gli industriali, i capitalisti, sono loro che devono guadagnare, mentre invece la povera gente deve soffrire, deve spendere. Purtroppo così, lo so. Ma io mi ricordo negli anni 60 così, anche 70, anche 80, con 150.000 lire comprarvi un bellissimo baracchino. Io ce l'avevo a quei tempi, l'avevo pagato 140.000, mi sembra, sì, 140.000. Costantino, mia principessa Iolanda, ed era un baracchino, tanto era grande quanto il canale di Saturnecco, era grande, con tanto di orologio, con tanto di... solo che aveva 23 canali, perché allora era così, radio sveglia, tutto quanto, cioè orologio sveglia, aveva tutto quanto, ma funzionava, era una bella figlia, bellissimo anche esteticamente. Poi si sa, col tempo, oggi un baracchino del genere così costerebbe non meno di 350 euro, e sono più che convinto. Ha preso prezzo, da quando è accettato l'euro, i prezzi hanno diventato in maniera assurda. Va bene, pazienza, quello che ti dice. Poi c'ho questi baracchini, queste americanate, il Magnum S9, no? Il primo esemplare ha dato problemi di vario tipo, display, segmenti del frequenzimetro che si spegnevano. Alla fine è tutto fuffa e cromature, 1009, ed era arrivato a costare quasi 500 euro in certi negozi. 500 euro, mi... E poi era di quegli apparati come l'Omega Force che facevano un TV feroce volendo, perché proprio buttavano fuori spuri, erano talmente amplificati che buttavano fuori mondezza, cioè se lo metti in un oscilloscopio, se li analizzi allo oscilloscopio sono uno scandalo quei baracchini. Vabbè, dopo la gente, un po' anch'io mi sono fatto irretire, non proprio l'S9, ma l'Omega Force l'ho avuto e lo potevo usare solo in macchina mia, perché a casa lui, capito, si notava che disturbava. È un baracchino esagerato, troppi watt, doppio modulatore, è come l'Alan 48 Colt, quell'uscita tremenda che c'ha, è roba che spara spuri e armoniche a tutto andare, manco chiama dei baracchini. Non so, se costa poco vale poco, vuol dire, si sa, quando costa poco vale poco, però questo ciò non toglie che i prezzi siano troppo esagerati. Sono come credono, quando ci stacchiamo buttiamo via tutto e non se ne parla più, perché non ce ne mettiamo o manco. Sì, comunque oggi come oggi, secondo me i migliori sono sempre questi, il 2009 e il 5005, super tasso, perché poi in effetti sono tutte della stessa famiglia, perché se tu controlli all'interno hanno gli stessi componenti, hanno tutto uguale, no? Hanno gli stessi finali, eccetera, le stesse regolazioni, lo sappiamo, purtroppo è così, cambia magari lo schermo, cambia perché è ovvio, ognuno modo suo, però internamente sono sempre questo, ecco perché ti dico che questi sono anche esagerati, non ha senso, ecco, vendere in quel modo, tanto più questi stanno morendo questi rigusti che vendono queste cose, muoiono, hanno poca vita, guarda, sicuramente, ancora qualche annetto e poi i baracchini non ci saranno più, assolutamente. Poi, se vogliamo dirla tutta, il 5005, alias 6009, 7009, 9009, sembrano essere lo stesso apparecchio, hanno le stesse identiche funzioni, a parte il beep, che nel 5005 è un beep normale, no? Tipo questo. Hanno lo stesso menu, stesse voci di menu, stesse funzioni, tutte e tre hanno l'autoascolto, tutte e tre hanno quell'eco lì, uguale. Sembra lo stesso apparato con tre forme diverse. E alla fine uno come me si fa infinocchiare, ne prende uno, poi l'altro ancora, poi scopre che sono lo stesso apparato. Cambia solo l'estetica. Ma capito, quando non sanno più cosa inventare, mettono una buccia diversa e lo vendono come nuovo e poi è lo stesso che avevi prima, magari. Sì, ma il mondo è sempre quello, ma il mondo interno è sempre quello. Cambia solo la carcassa, cambia o manco, perché se no la commercia non andrà avanti. Però poi alla fine, l'interno è sempre quello, il circuito è più o meno quello, quindi può variare qualcosina, ma niente di più, sì, ma anche quello che ti aggiungi, che so io, il te con la parte, c'è quell'altro che ti aggiunge il VIP, c'è quell'altro che ti aggiunge l'ecco, sono no, persone di commercio, magari perché esiste più soldi, capito? Lo fanno solo per quello di voi, ma poi alla fine, il circuito interno è molto, ma molto simile, lo sappiamo, se c'è finale, se c'è componenti, la maggior parte così. Vado, mi faccio la luce anche così, poi scendo dalla cena e torno. E ci presentiamo domani eventualmente. Vado, comunque ci pensavo, guarda se mi venga in mente di comprarmelo uno di questi, potrei dire dopo, guardate. Dietro, però bene quello con il marchio, cioè, se no riparo quello che ho e non si riparo più, adesso vediamo, però alla fine io ho limitamente tutto, ne ho 12, puoi immaginare, più il grande, a me ne mancano, poi, ciao Marco, grazie alla chiacchierativa, dai, ci sentiamo, il tuo numero di telefono me lo sono registrato, per cui, va bene così, non ho registrato in tutti i tuoi telefoni, non volete lasciare il sole, ci sentiamo, ciao Marco, ascolto il finalino, poi ci vedo, ciao, chiudo. D'accordo, ciao Giulio, dai. Sentiamo domani o quando capita, ma penso che accenderò anche domani. Sento, c'è il microfono a sistemare perché sento me. C'è la cazzola che balla, prima non ballava, magari quando ha preso una bottarella si è smosso qualcosa. La devo fissare e non ne ho voglia. Dai, sentiamo, buona cena, buon tutto. Io adesso vado a fare un po' di... devo cambiare la sabbia e gatte, devo buttare un po' di differenziata, insomma. E poi mi rilascio, ok? Ciao, buona serata, buon tutto, ciao. Ciao, ciao.